Forse mi sono perso, ora mi sono accorto che sul mio corpo c'è l'odore di te. Ora mi rendo conto che nel mio profondo non resta niente, soltanto solo tracce di te. Imparerò a buttare via tutte le foto e la magia, e quando poi ti ritroverò darò più spazio a tutto ciò. Vedi, ad esempio, la follia, e questo odore non va più via, e io non ti dimenticherò. Questa notte che luna non ha, durerà un'eternità. Ripeterò quegli attimi e ricomincerò da lì a capirti e difendermi. Sul mio corpo c'è l'odore di te.